ore 10.57 di mercoledì 26 o 25, credo 26 novembre 2003. E proprio in questo momento sono quasi le 11. Sto battendo il mio record di durata del viaggio da casa al posto di lavoro. Siamo oltre le 2 ore e 13 minuti, quindi battuto il record dello scorso anno a causa degli allagamenti sulla corda anulare soprattutto. E l'altra notizia è che l'auto aziendale che sto guidando venerdì la dovrò restituire, questo era ampiamente previsto, quindi purtroppo questo blog, che si ispira in larga parte alla Focus e alle leggende che la accompagnano, la Focus aziendale, dovrà un po' cambiare il suo posizionamento, perché ci sarà sicuramente una fase di transizione in cui guiderò la Y10, la piccola Y10 di mia moglie, che peraltro è una macchina che va molto molto bene, e poi credo che dovrò attingere all'unico vero mercato dell'usato garantito, quello dei miei genitori, e mi ritroverò credo a bordo di una Citroen Xara, una di queste macchine rialzate, evidentemente perché nella grande crisi che attraversa la generazione dei trentenni l'unico rimedio individuato dal mercato automobilistico è l'elevazione dell'ego, e quindi questo tipo di auto monovolume riscuote un grandissimo successo.